Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati da Deborah Rosciani e Salva Danaio, rieccoci insieme per un nuovo martedì del lavoro. È, come sapete, il tema che appunto affrontiamo in questa giornata della settimana. Quale tema abbiamo scelto oggi da approfondire? In un periodo come questo, con l'ingresso nel mercato del lavoro che è diventato estremamente difficile, nessun dettaglio inerente alla ricerca di un impiego può essere lasciato al caso. Per questo è importante che a tutti i livelli la compilazione del curriculum avvenga con grande cura, tenendo ben presenti i criteri con cui le aziende selezionano le risorse umane. Salva Danaio oggi raccoglie consigli ed indicazioni pratiche da tenere presenti appunto per far sì che il proprio curriculum sia preparato in modo efficace ed utile, perché d'altronde si tratta di un documento nel quale migliaia di persone ripongono tante speranze che a volte sono vane, perché se non è compilato in maniera accattivante questo documento nel contenuto ma anche nella forma, spesso non riceve risposte, con grande frustrazione naturalmente dei diretti interessati. Per cui oggi parleremo di tutto questo. Quali sono, raccontatecelo, gli aspetti che vi lasciano più incerti nella compilazione del curriculum? Quanti ne avete mandati in giro senza nessun risultato? Avete capito anche se avete fatto degli errori di forma oltre che di sostanza nella compilazione? 800 24 00 24, il numero verde che vi dà come sempre l'opportunità di chiacchierare con noi sul tema del giorno. Scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook salvadanaio-radio24 e su Twitter @salvadanaio24. Con noi stamattina tanti ospiti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, per darci molti suggerimenti pratici per fare al meglio appunto questo lavoro. Abbiamo già collegati telefonicamente Simone Mainetti, Career Service dell'Università Bocconi. Buongiorno. Buongiorno. È il punto di assistenza dell'università appunto per gli studenti e laureati, proprio per tutte quelle indicazioni necessarie per, una volta lasciata l'università, addentrarsi nel miglior modo possibile appunto nel mercato del lavoro. Con noi poi anche Simona Sacco, responsabile area orientamento di Umana, che è un'agenzia del lavoro appunto per il lavoro, e quindi qua avremo chiaramente anche i suggerimenti dal punto di vista dell'azienda per capire che cosa vuole quando questo documento un'azienda lo riceve. Dottoressa Sacco, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, dottoressa Rosciani, a tutti i suoi ospiti e radioascoltatori. E poi naturalmente il nostro fil rouge verrà tenuto questa mattina da uno dei nostri ospiti ricorrenti sulle tematiche del lavoro, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore, che ha scritto molto anche su questo argomento. Avvocato, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Più tardi avremo anche un altro punto, come dire, di riferimento per chi cerca informazioni su questo argomento. Andremo a vedere che cosa succede a Torino al centro Informa Giovani, e avremo ospite collegato telefonicamente con noi più tardi Flavio Bortolini, che è un operatore appunto di questo centro. Per cui tanti punti di vista, tanti suggerimenti. Adesso con la nostra scheda riassumiamo un po' il tema del giorno e l'importanza soprattutto di compilare correttamente questo documento per presentarsi meglio ed entrare meglio appunto nel mercato del lavoro. La disoccupazione a doppia cifra e la difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro rendono al giorno d'oggi la ricerca di un'occupazione spesso lunga e frustrante. Per questo è importante ridurre al minimo gli errori nelle fasi in cui ci si propone e si entra in contatto con quello che potrebbe diventare un datore di lavoro. E per molti, se non tutti, il primo passo è quello della compilazione del curriculum vitae. Scrivere il proprio curriculum è una vera e propria operazione di marketing. Bisogna sapersi presentare nel modo corretto, descrivendo le proprie competenze, attitudini e talenti, con un occhio sempre attento a chi leggerà questo identikit e al tipo di profilo che sta cercando. Per questo può essere importante modificare e personalizzare i curricula in funzione dell'interlocutore, evidenziare abilità e obiettivi con una sensibilità particolare rispetto all'azienda a cui ci stiamo rivolgendo. Sempre più spesso le società appaltano la gestione delle risorse umane ad aziende terze, specializzate proprio nella selezione. Una tendenza che ha visto una crescita del 70% negli ultimi 6 anni. A seconda dei casi, bisogna saper individuare il formato corretto, decidere su quali aspetti puntare per farsi notare dal selezionatore, che spesso non avrà che pochi minuti per leggere questo importantissimo biglietto da visita. Essenzialità, efficacia, correttezza nella forma, ma anche intuizione e creatività. Sono quindi tutti aspetti da tenere presenti quando si compila il curriculum vitae, tanto più in un periodo difficile come questo in cui, purtroppo, ottenere una risposta o un colloquio in molti casi è già considerato un successo. Benvenuti al mondo, ci si domanda cos'è che è indispensabile. Cosa è indispensabile per compilare al meglio un curriculum? Anzi, cosa è meglio fare per compilare il curriculum perfetto? Come centrare il curriculum perfetto in tempi di crisi? Vi ho letto anche qualche articolo di tanti vademecum che abbiamo trovato con il mio collaboratore Marco Lombardo su internet e su tanti giornali che si occupano di questi argomenti delicatissimi di questi tempi. Io voglio sentire subito il punto di vista delle aziende. Simona Sacco, responsabile area orientamento di Umana, agenzia per il lavoro. Ho letto su un articolo pubblicato da un collega di Repubblica che molte aziende utilizzano addirittura dei software specifici per scremare le candidature, per cui non è che ci sia chi ha grande buona volontà all'interno di un'azienda che si mette lì a leggere tutte quante le presentazioni che possono arrivare, naturalmente per candidarsi ad occupare un posto, magari quello che l'azienda ricerca, per cui bisogna fare molta attenzione anche da questo punto di vista, fare forse a volte un invio mirato, no, alle aziende, dottoressa Sacco. Senz'altro l'invio mirato alle aziende è la cura con cui si prepara la propria carta d'identità professionale autoprodotta da ciascun lavoratore, ovvero il curriculum vitae, è fondamentale. Una fase di preparazione prima dell'invio è importantissimo. Dopo di ciò ogni azienda fa una gestione delle risorse umane secondo le proprie modalità, c'è chi utilizza canali diversi, tra cui anche questi software, c'è chi comincia ad utilizzare anche in Italia il video curriculum, però di fatto per quella che è la nostra esperienza di dialogo con le nostre aziende clienti, che sono aziende nazionali, multinazionali, piccole, grandi, di ogni settore, il curriculum vitae è ancora lo strumento più utilizzato per fare la preselezione, quindi per poi decidere quale sarà la rosa di candidati che arriveranno al colloquio di lavoro. Non dimentichiamo che scrivere bene un curriculum deve avere l'obiettivo di portarci ad incontrare de viso il selezionatore. Quali sono le ingenuità più diffuse che si commettono? Nonostante tutti i vademecum che troviamo, nonostante anche lo sforzo che per esempio il mondo universitario fa e tanti punti di informazione che magari si possono trovare sul territorio. Diciamo che purtroppo, e questa è una considerazione condivisa anche con i responsabili del personale delle nostre aziende clienti, oltre che con il nostro ufficio del personale e i colleghi che lavorano nelle nostre 114 filiali sul territorio, la difficoltà che troviamo nelle persone, siano esse giovanissimi, ma anche persone che magari hanno una professionalità e vogliono cambiare lavoro o oggi purtroppo rientrare nel mondo del lavoro, è quella di mirare la candidatura, ovvero di diversificare con dettagli significativi però il proprio curriculum in base all'azienda alla quale ci si sta rivolgendo o al profilo che ci interessa di più. Quindi vediamo ancora troppi curricula ciclostilati che nascono forse dalla credenza che più curricula manderò, più facilmente mi chiameranno. E invece non è così. Posso raccontare anche l'esperienza che ci capita a Radio 24, molte persone che si candidano, naturalmente anche se adesso il panorama dell'informazione è un deserto nei tartari e ci sono poche opportunità, appunto a parte qualche stage che danno molte opportunità appunto a molti ragazzi di fare l'esperienza nella comunicazione e nell'informazione di questo tipo, c'è chi ci manda appunto il curriculum, poi magari il curriculum è anche fatto bene, ti interessa, senti la persona e ci raccontano che non hanno mai sentito Radio 24, neanche l'intelligenza poi di dire il giorno prima me la sono ascoltata tutto il giorno, quindi anche altre ce ne sono di ingenuità. Per cui attenzione anche a tutto questo. Giampiero Falasca, avvocato, lei che magari ne riceve anche di curriculum di persone che vogliono candidarsi a lavorare nello studio legale dove si trova lei. Che cosa nota appunto nella compilazione di questi documenti tra ingenuità, errori che vengono fatti appunto o magari documenti troppo lunghi, perché appunto di errori se ne fanno tanti. Ci racconti un po' l'esperienza concreta? Beh sì, esattamente questo. Tra l'altro, Deborah, in questi giorni sono presidente di una commissione di concorso e anche lì ne sto vedendo di tutti i tipi proprio sul tema curricula. Diciamo, quello che accade è simile a quello che accade con Radio 24, cioè riceviamo curricula di persone che scrivono vogliamo lavorare nel vostro studio legale, diciamo, e non sanno neanche quali dipartimenti ci sono, quindi si scrivono a me per candidarsi per fare diritto aerospaziale, piuttosto che scrivono al collega penalista proponendosi per il diritto del lavoro, quindi la scarsa personalizzazione è sicuramente un primo vizio del curriculum. Poi un'altra cosa che io vedo abbastanza ricorrente, quindi poco personalizzata, è spesso sono troppo lunghi. Cioè si raccontano dentro i curricula esperienze di tutti i tipi. È importante, io dico sempre che il curriculum non serve in realtà a essere scelti, serve ad evitare di essere depennati. Ah, quindi ecco. Diciamo, la prima è vero che esiste quel tipo di software, perché secondo me quel software lo potremmo applicare anche io e lei. I curricula più lunghi di 2 pagine li scartiamo. Perché partiamo da questo: in 2 pagine una persona, soprattutto giovane, deve essere capace di raccontarsi, quindi ci vuole una certa sintesi, non ha senso dire che si è fatti le scuole medie se si ha una laurea, si parte direttamente dalla laurea, non ha senso, io diciamo per anni da ragazzo ho fatto volantinaggio e lì ricordo che nei primi curricula mettevo questa attività, poi progressivamente ha fatto la selezione che non era tanto il caso, e quindi no, è inutile trascinare esperienze di magari poco coerenti tra loro in documenti appunto che negli anni diventano sempre più lunghi e fantastici. Un capo del personale allenato in 2 pagine capisce se possiamo partecipare alla selezione o meno. Infatti questo è fondamentale. Volevo sentire un attimo il punto di vista dell'università con Simone Mainetti, Università Bocconi, poi abbiamo già degli ascoltatori pronti a raccontarci il loro pensiero sul tema molto importante di questa mattina, ma tutte queste cose all'università vengono spiegate nel vostro servizio attrezzato appositamente per questo, dottor Mainetti? Sì, direi assolutamente sì. Mi sembra che già con la scheda e con gli interventi che mi hanno preceduto abbiate un po' centrato quelli che sono i principali problemi che i nostri studenti si pongono nel momento in cui si trovano a dover scrivere un curriculum vitae. Proprio per questo da anni diciamo la nostra università, in particolare attraverso il nostro servizio, ha pensato a come diciamo aiutare i nostri studenti proprio nella redazione sia del curriculum che della lettera di motivazione. Finora non ne abbiamo parlato, però anche questo è un ottimo strumento per iniziare ad avvicinarsi alle aziende. Sicuramente è possibile diciamo venire personalmente attraverso i nostri uffici per rivedere insieme a un nostro esperto la redazione del curriculum e della lettera di motivazione, ma poi con il tempo abbiamo anche sviluppato dei moduli e-learning che permettano ai nostri studenti laureati di comunque essere un pochino autonomi nella redazione del curriculum. Avere la capacità anche di aggiornarlo, come indicava prima appunto l'avvocato Falasca, perché chiaramente una volta fatto non può andare bene per 5 anni consecutivi. Allora, un altro tema del quale nel corso della trasmissione vorrò parlare, magari lo faremo con Bortolini da Informa Giovane di Torino, ma anche con la dottoressa Sacco, il tema è di chi magari ha un profilo un po' più modesto, che non ha la capacità magari di compilarlo correttamente un documento come questo, ma che naturalmente anche per altri tipi di profili, non solo per gli studenti che escono dall'università, è importante che si abbia un buon appunto biglietto da visita. Diceva prima la dottoressa Sacco, chi ha bisogno anche di ricollocarsi sul mercato del lavoro ma magari non ha esperienze universitarie, ha però esperienze pratiche su fronti professionali diversi e naturalmente deve essere capace di raccontarli al meglio nel curriculum. Prima di andare in pausa mettiamo subito in pista un'ascoltatrice che è Alessandra da Milano, che saluta. Alessandra, buongiorno all'800 24 00 24, buona giornata. Alessandra. Pronto, buongiorno sì. A tutti. Eccoci, ci dica. Sì, buongiorno, ma io ascoltavo appunto con grande attenzione, grande interesse l'intervento di tutti. E devo dire che la prima cosa che mi è venuta in mente e il motivo che mi ha spinto a contattarvi è di condividere un po' la mia esperienza, nel senso che devo dire io sono sempre stata molto fortunata fino ad ora, grazie al cielo. I miei curricula hanno molto spesso avuto, come dire, un riscontro per cui mi ha quasi sempre consentito quantomeno di avere almeno un primo colloquio e poi diciamo di giocarmela personalmente. Ascoltando così l'intervento di tutti e il contributo di tutti, mi ritrovo effettivamente mi ritrovo. Cioè il curricula io li ho sempre preparati studiando con grande attenzione l'azienda a cui lo inviavo. Questo insomma un po' memore dell'insegnamento in realtà di mio padre, che mi ha sempre aiutato sin dall'inizio in questo senso qua e poi mi ha reso autonoma. E questo è sempre stato sicuramente premiante. Un approccio vincente, sì. Esatto, un po' un approccio commerciale di se stesso, no? Io ho un ruolo commerciale, per esempio, adesso dove lavoro. È ovvio che quando vado a visitare un'azienda per la prima volta, ecco, quantomeno mi informo. Mi documento, direi che esatto, mi sembra il minimo sindacale, certo. Esatto. E questa è una cosa. L'altra cosa che però devo dire, che ho notato, è in realtà la diversità, la differenza del riscontro che si ha da parte delle aziende in Italia e all'estero. A me è capitato anche di compilare, appunto, inviare curricula anche ad aziende estere, dove molto spesso, anziché inviare un documento proprio personalizzato, si compila un'application un po' più standardizzata per certi versi, che però aiuta, a volte meglio, almeno per me è stato così, aiuta di più il candidato a capire effettivamente qual è l'esigenza dell'azienda, perché a volte questo si fa fatica a capirlo, a volte lo si scopre soltanto perché magari si hanno delle conoscenze personali all'interno dell'azienda, che non significa avere una raccomandazione, ma semplicemente avere una dritta, in termini, su qual è effettivamente l'esigenza dell'azienda rispetto a quel profilo. Alessandra, quindi è inutile che noi facciamo, come dire, l'ABC per aiutare chi ha necessità a formulare un curriculum perfetto, se poi magari ci documentiamo al meglio sull'azienda per la quale vogliamo rispondere magari ad un annuncio e poi in realtà ci ritroviamo che la posizione che devono ricoprire non è poi così chiara e ci fa anche, come dire, cannare completamente la compilazione di questo documento. Il curriculum è il nostro biglietto da visita, il nostro identikit. Ma qual è l'identikit di un buon curriculum? Innanzitutto deve essere di facile lettura, aiutando il selezionatore a cogliere le informazioni importanti, anche attraverso l'utilizzo di un formato standard e di una grafica leggibile. Deve essere sintetico e non superare le 2, massimo 3 pagine e presentarsi come un documento ufficiale, evitando quindi attentamente errori grammaticali e di ortografia. Attenzione a non dimenticare mai dati anagrafici, contatti e riferimenti. Meglio non dilungarsi nella descrizione delle esperienze svolte. Può essere utile dedicare un piccolo spazio a hobby e passioni, sottolineando quelle che maggiormente si conciliano con lo spirito e la cultura dell'impresa a cui ci si rivolge. Adesso risponderemo ad Alessandra da Milano, prima però Università Bocconi, Simone Mainetti. Alcuni ascoltatori, tra cui il nostro Maurizio Agazzi, che è il direttore generale di Cometa e che ci twitta follemente questa mattina, come fa spesso anche in altre circostanze, dice che spesso questi curriculum sono accompagnati da mail private impresentabili, perché al curriculum va legata anche una mail di presentazione personale. Lì che cosa va scritto? Allora, nella mail o nella lettera di motivazione, se si vuole allegare la lettera di motivazione, l'obiettivo è proprio quello di avere uno spazio un pochino più, che ci permette di esprimere in maniera più chiara e approfondita le motivazioni per cui ci rivolgiamo a quella specifica azienda, per cui siamo interessati a quella specifica posizione e quali sono le nostre caratteristiche personali, le nostre competenze per cui siamo idonei per quel tipo di posizione. Quindi se il curriculum è la fotografia attraverso cui noi riassumiamo un po' tutto quello che abbiamo fatto finora, la lettera di presentazione o la mail di accompagnamento ci serve per esprimere in maniera più approfondita quelle che sono le reali motivazioni per cui ci candidiamo per quella posizione. È fondamentale dire che sia una spiccata attitudine al lavoro di gruppo? Allora, direi che questi sono, diciamo, i requisiti che le aziende in questo momento stanno cercando. È fondamentale però argomentare ogni nostra caratteristica personale attraverso degli esempi concreti attraverso cui il selezionatore può esattamente capire in che modo abbiamo sviluppato questa attitudine al lavoro di gruppo, altrimenti chiunque di noi potrebbe scrivere qualsiasi cosa nella lettera di motivazione e quindi risultare credibile. Ovviamente se io accompagno ha queste mie caratteristiche personali, un'esperienza molto breve che descriva in che modo ho sviluppato questa caratteristica, il selezionatore sicuramente è più portato a credere a quanto sto scrivendo. Sarebbe anche molto originale vedere in un curriculum una persona che scrive: sono molto portata a lavorare in totale solitudine. Esattamente. Allora, abbiamo il tema anche delle aziende, ritornerei a Simona Sacco. Dottoressa Sacco, le metto anche un'osservazione di Andrea da Bologna, così rispondiamo complessivamente a chi appunto chiede un nostro contributo dal punto di vista delle aziende. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Siamo da Modena. Sì, sì. Mi avevano scritto Bologna, mi dica, sì. Per quanto riguarda le aziende che si propongono tramite i filtri, le aziende di interinali, di lavoro interinali, ecco, l'utente che manda un curriculum vitae per cui magari è perfetto, ma non conosce l'azienda, per cui questo filtro può ingannare Lei, Andrea, che deve specificare un curriculum. Ho capito, ma la persona che presenta il curriculum si candiderà per un lavoro piuttosto che un altro, non ho capito qual è la sua... Sì, certo, perché la conoscenza dell'azienda, ogni azienda nello stesso settore può essere differente, e al di là della stessa mansione, se uno dovesse personalizzare questo curriculum... ha qualche difficoltà anche tutto lì. Sì, certo, lei dice se si rivolge al canale dell'intermediario è un po' più complicato. Allora, sentiamo quali suggerimenti a tali propositi ci può dare la dottoressa Sacco, partendo da Alessandra da Milano, che dice: molto spesso si fa fatica a cogliere esattamente l'esigenza dell'azienda, per cui possiamo legarli tutte e due, no, i nostri ascoltatori, dottoressa Sacco? Personalizzare certamente il documento è un po' più complicato in certe circostanze. Certamente, rispondo molto volentieri a questa domanda, perché poi dà la misura del valore aggiunto che hanno le aziende, ma anche le persone, nel rivolgersi all'Agenzia per il Lavoro. Quando un candidato si rivolge a noi, anche interessato ad una posizione lavorativa che noi abbiamo promosso, pur non conoscendone naturalmente magari tutti gli estremi, ha la possibilità di, facendosi conoscere a noi, quindi aprendosi anche con una certa fiducia, di ricevere questa fiducia e quindi di sentirsi raccontare sia la posizione ma anche poi l'azienda, e di sentirsela raccontare da persone che in azienda ci vanno tutti i giorni, che conoscono i referenti aziendali, i responsabili di personale, ma non solo, le persone poi operative con cui i nostri candidati, diventati i nostri lavoratori, andranno ad operare quotidianamente. Quindi da questo punto di vista la posizione e l'azienda vengono raccontate da noi ai candidati. Rispetto alla possibilità di conoscere magari fin da subito l'azienda, c'è anche da dire che in alcuni territori ci sono realtà più o meno riconosciute, realtà più piccole, più grandi. Alle volte il candidato arriva da noi e ci dice: è quella l'azienda, vero, per cui state cercando questo profilo. E quindi con grande trasparenza poi se ne parla tranquillamente. Certo, noi abbiamo poi bisogno di conoscere le competenze, le abilità, le motivazioni delle persone, la disponibilità, la flessibilità che questo candidato può avere, e poi raccontiamo l'azienda. Inoltre offriamo a tutti i candidati che vengono selezionati per una posizione lavorativa un servizio ulteriore, che è quello dell'accompagnamento in azienda per il colloquio conoscitivo. Certo, una volta che è stato accettato, il curriculum, che è stato apprezzato e piaciuto, quindi si vuole fare lo step successivo, chiaramente bisogna anche essere pronti a sostenere il colloquio. Dottoressa Sacco, ancora prima di questo passo, però, qualora ad un'azienda non interessasse una candidatura, è buona prassi che l'azienda risponda per non far perdere inutilmente tempo magari al candidato, così almeno ci si orienta altrove? Magari si può andare anche a controllare se il curriculum è stato scritto in maniera sbagliata, oppure non c'è molto frequentemente in Italia questa buona abitudine? Allora, io credo che alcune aziende ce l'abbiano proprio come prassi, come abitudine di cortesia e di buona educazione nei confronti delle persone che hanno dimostrato un interesse nei loro confronti. C'è da dire che però molte aziende del nostro tessuto imprenditoriale non sono così organizzate a livello di gestione del personale, e forse non mettono così tanta cura a questo aspetto, quindi capisco che possa essere frequente che molti candidati non abbiano un ritorno. Tra l'altro può capitare anche spesso che un curriculum venga lì tenuto un po' al caldo e magari un candidato venga ripescato in un altro momento più favorevole, anche perché vabbè, però queste sono circostanze magari straordinarie. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso sentirò Alessandro dalla provincia di Lecco e poi abbiamo già collegato telefonicamente e lo saluto Flavio Bortolino, operatore del Centro Informa Giovani di Torino. Bortolino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Adesso siamo proprio curiosi di sapere che cosa fate in questo territorio per aiutare tutte le persone che vengono da voi a compilare appunto il curriculum per presentarsi nel mondo del lavoro. Anche la compilazione del curriculum non si sottrae alla dura legge del web. Spesso, per candidarsi a una posizione lavorativa, è necessario compilare form online, aggiungendo foto, video, lettere di accompagnamento. Aspetti che vanno curati con la massima attenzione. Sempre più spesso, una prima selezione avviene in modo automatico, con l'utilizzo di software specifici che effettuano ricerche automatiche basandosi sulla presenza di alcune parole chiave che è bene conoscere. Un curriculum non compilato nel modo corretto, anche se corrispondente a un validissimo candidato, potrebbe quindi essere scartato in modo meccanico. Un'importanza sempre maggiore viene ricoperta dai social network, quelli appositamente pensati per condividere le proprie informazioni professionali, come LinkedIn, ma anche quelli che si utilizzano per il proprio svago e nel tempo libero. Bisogna fare attenzione, insomma, a tutto ciò che si pubblica su internet. La cosiddetta storia online di una persona può diventare, tanto quanto ciò che è scritto sul curriculum, oggetto della selezione a cui ci si sottopone. E infatti c'è anche un'ascoltatrice, anzi un ascoltatore, Davide da Verona, che dice: è vero che viene usato Facebook per un ulteriore controllo dei candidati, cosa che mi ha detto un selezionatore. Allora, perché abbiamo introdotto il tema internet? Perché all'Informa Giovani di Torino hanno recentemente organizzato un aperitivo informativo proprio sul tema del curriculum, con particolare attenzione alla questione della reputazione online, giusto Flavio Bortolin? È giusto, è vero, l'abbiamo fatto. È stato un appuntamento all'interno dei nostri aperitivi informativi, abbiamo fatto proprio un incontro su questo tema. Ecco, quali suggerimenti date a proposito dell'utilizzo oggi anche abbastanza non tanto diffuso quanto spregiudicato di internet per immettere tutte le informazioni personali, appunto? Allora, bisogna considerare in prima battuta che è vero, le informazioni che ci sono online, la nostra reputazione online è utilizzata dai selezionatori anche per controllare la nostra storia, un po' la nostra candidatura. E quindi sì, se mettiamo le foto dove ci stiamo divertendo in una maniera un pochino particolare il venerdì sera, potrebbero essere usate contro di noi, diciamo così. Però non è solo da vedere in negativo. Negativa, certo. Se per caso abbiamo partecipato a delle conferenze piuttosto che siamo stati invitati da qualche parte e queste notizie sono online, possono giocare molto a favore. Certo, Bortolin, senta, noi fino adesso ci siamo occupati di aziende, di studenti che devono compilare il curriculum una volta che si sono laureati. Probabilmente in un punto come quello dove opera lei è necessario assistere anche persone che magari hanno profili più modesti, ma che hanno ovviamente tutto il diritto di presentarsi sul mercato del lavoro con un documento redatto secondo tutti gli standard. In questi casi quali suggerimenti si possono dare per farlo al meglio questo lavoro? Allora, secondo me le prime cose da tenere in considerazione sono: uno, avere chiaro lo scopo del curriculum, cioè che cosa serve il curriculum, perché spesso si pensa che il curriculum sia uno strumento che ci permetterà di avere il lavoro. Falso. Il curriculum ha lo scopo di farci arrivare a un colloquio di selezione, quindi questo cambia anche le informazioni e la quantità di informazioni che possiamo inserire nel curriculum, quindi molto chiaro che cosa serve. Poi il fatto che i curriculum non possono essere utilizzati per qualsiasi profilo, non ha senso candidarsi per fare tutto. Avere chiaro qual è il profilo che il candidato vuole far emergere. Spesso, anzi sempre, il fatto di avere tante esperienze diverse che non sono coerenti una con l'altra non danno l'idea di flessibilità, ma, e quindi di so fare un po' di tutto, ma L'idea che passa è: in realtà non so fare bene niente. Oppure mi accontento di fare tutto perché ho bisogno, quindi magari ecco, non si fa bene niente, perché poi capita pure quello. E quindi insomma anche lì attenzione. Sì, no, dicevo, è una cosa che poi in realtà è così, no? Molti la vivono così. In questo momento di crisi sto cercando qualsiasi tipo di lavoro, però è un po' sbagliato, anzi è molto sbagliato farlo emergere in questo modo palese. Le faccio sentire allora, guardi Bortolin, questa esperienza di Alessandro dalla provincia di Lecco, che poi se riesco, ma il tempo sta ormai terminando, lo commenterò anche con i nostri altri ospiti, perché per la verità vedo che è una testimonianza ricorrente simile a quella di altri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Alessandro, buongiorno, se ce la fa molto rapido, la ringrazio molto. Sì, rapidissimo se riesco. Niente, io da quando ho finito le superiori, quindi adesso ho 26 anni, ho sempre lavorato in parte diciamo più commerciale. Io forse per stanchezza mia personale mi tengo stretto questo lavoro oggi come oggi, infatti, perché comunque serve. Io vorrei rivalutare tutta la mia situazione lavorativa proponendomi comunque in un campo totalmente diverso, che è quello del manutenzione per impianti, soprattutto nel settore energetico, perché io, avendo studiato elettronica e telecomunicazioni, so che c'è richiesta, cioè lavori più manuali, più anche di manovalanza, più fisici, proprio per avere provato, secondo me, nella mia vita cose diverse in campi diversi, che secondo me fa tanto. Io non so se scrivere sul curriculum anche una disponibilità a imparare gratuitamente, a seguire dei corsi, cioè investire comunque anche dei miei soldi personali per imparare un lavoro, sia una buona cosa o un calarsi le braghe, ecco, come dicono dalle mie parti. Alessandro, intanto hai 26 anni, ti adoriamo, una bellissima testimonianza. Dottoressa Sacco, che cosa gli suggerirebbe di fare? Ma assolutamente direi di passare da noi. Sia perché il suo profilo ci interessa molto per quello che ha fatto fino ad oggi, perché appunto stava dicendo che ha cambiato molti lavori, si è provato e si è testato, e ha cercato la passione in quello che faceva, ma anche questa voglia di riconvertirsi. Oggi che il mercato del lavoro premia chi desidera farlo, dal nostro punto di vista può avere dei risvolti positivi. La propria disponibilità a formarsi, ad autoformarsi, è una di quelle competenze che le aziende cercano. Poi di Alessandro si percepisce anche, adesso forse mi sbaglio, ma non credo, uno spirito di iniziativa molto lucido, quindi non strumentale anche al fatto appunto di entrare nel mondo del lavoro, che poi chiaramente è tutto legittimo, però ha una lucidità di pensiero che l'azienda non può che analizzare e prendere in considerazione. Allora Alessandro, poi se volete faremo questo match, vi metteremo in contatto per capire effettivamente se anche passando da umana appunto Alessandro può percorrere il percorso appunto che il nuovo cammino che lo interessa. Ci metto subito Daniele dalla provincia di Pavia, poi sì, ma non ce la faccio. Daniele chiedeva se l'autocandidatura potrebbe essere uno strumento efficace, bisognerebbe capire in che contesto. Magari Daniele ci scriva e gireremo la sua domanda un po' più articolata ai nostri ospiti. Giampiero Falasca penserà che l'ho invitata per scherzo stamattina. Una conclusione su tutto il tema di oggi in 30 secondi, anche meno? Beh sì, io una conclusione mi veniva in mente mentre ascoltavo, che il curriculum deve essere sicuramente scritto bene, ma poi deve raccontare cose vere. Il caso più eclatante per cui il curriculum racconta cose non vere è quello dell'inglese. Tutti scrivono che parlano ottimo inglese e poi ecco qua, ai colloqui dicendo in 3 settimane lo imparo. Benissimo. Quello che ci ha detto prima l'ascoltatore Alessandro è stato bellissimo. Io direi facesse il corso, si sbrigasse, perché con la volontà che ha troverà il lavoro, però deve prima farlo e poi metterlo. Benissimo, grazie a tutti, a Giampiero Falasca, Simona Sacco, Simone Mainetti, Flavio Bortolin. Torniamo domani con Salva Danaio. A tutti buona giornata. Salva Danaio.